Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. Ecco, qui diamo una notizia, dai. La diamo una notizia, ma sì che la diamo. Noi stiamo riorganizzando le agenzie. Ve la dico così. Noi stiamo riorganizzando tutto il sistema del rapporto tra cittadino e pubblico amministratore. Dove voglio arrivare? Secondo me al 2018 Equitalia non ci arriva mica. Perché noi abbiamo ridotto le tasse come non ha mai fatto nessun governo prima di noi. Eppure, ma quando vado in pubblico e dico abbiamo ridotto le tasse, ma anche quando vado a cena con i miei amici, quando torno a casa, mi guardano e fanno: sì, sì, avrai anche ridotto le tasse, però non ce ne siamo accorti. Ma quel Mac l'hai pagato con i soldi nostri, no con i miei. Però tra l'altro sono stato denunciato da Adico, da una qualche associazione di consumatori, perché uso il Mac e dice faccio pubblicità occulta. Questo è meraviglioso. Per cena hamburger di Chianino a bistecca, stiamo andando, fatta alle 21.30, ragazzi, la gente alla fine è stanca. Chi ha fatto la finale, che ha vinto? Liverpool o... ha vinto Siviglia. Un'altra volta. Commento, ciao Matteo, mia nonna fa 80 anni, puoi fare gli auguri come ti fa Gianni Morandi? E questa è meravigliosa, Nicola. Non mi riuscirà mai a farli come Gianni Morandi, sono mortificato per questo. Fatti mandare dalla nonna a fare gli auguri, un grandissimo abbraccio alla nonna che compie 80 anni, la mia quest'anno va per i 96, cioè io ho due, una va per i 96, una per gli 86. Sono meravigliosamente in forma entrambi, sono naturalmente contento di tutto questo. E vabbè, scampoli di Matteo risponde. Ieri in prima serata, spero che voi non abbiate preso impegni, non c'era nulla da vedere se non Matteo risponde. Infatti tutta la redazione ci siamo riuniti. No, non è vero. Ho creduto troppo in me. Lo so. No, io non l'ho visto. Tu, Lorenzo Nespoli, l'hai visto? Peter Biscapè? Stavi ancora smaltendo l'alcol. Hai visto il Siviglia? Te lo diceva lui, Matteo. Rispondi. Te lo diceva lui, vedi, te l'ha detto lui, ha vinto il Siviglia. Matteo risponde! Cancelleremo Equitalia! Siamo quelli che abbiamo abbassato le tasse più di tutti! Gli auguri alla nonna di 80 anni! L'annuncio della vittoria del Siviglia in Europa League. Ma cosa volete di più dal vostro presidente del Consiglio? Ma che volete di più? Lascia su di me il tuo profumo, rispondi. Dove sei, con chi vai, chi si prende? E Matteo ha risposto, ha risposto. Tra l'altro ha fatto questo errore, non è la di Consum, l'associazione dei consumatori che ti ha denunciato, Renzi, è il nostro Rienzi, quasi omonimo del Codacons, che tre giorni fa ci ha detto qui l'ho denunciato perché utilizza, facendo pubblicità occulta, una marca di computer bene in vista, e Renzi si è arrabbiato, ma hanno pure un'associazione di consumatori mi ha denunciato. Vabbè, Carletto Rienzi ha avuto il suo momento di celebrità. Allora, sono le 6:34 minuti, qui devo subito convocare per un giovedì esplosivo, perché qui piove a catinelle, a Milano, piove che Dio la manda. E allora devo subito convocare un po' di sole, un po' di sole. Veronica Gentili. Sono Fiorenti, stai senti. Settimana sta andando molto bene. Sì. Non mi fa finire la settimana con la pensatrice. Hai capito? Se no mi fai girare ogni giorno. Così non va! Veronica! No! Veronica! Il nostro Anacleto, il fiorentino, gli abbiamo già rovinato la fine ogni settimana. Ogni desiderio di Anacleto è immediatamente esaurito. No, no, per la verità non ti voleva. L'ho capito, infatti eccomi. Eccolo qua. Per dedicata tutta al fiorentino, Veronica Gentili. Sono qui per te, Anacleto. Eccola, il fiorentino. E facciamo girare i coglioni. Vabbè. Che dobbiamo fare? Noi sempre i fiorentini facciamo girare i coglioni. Eccolo, eccolo. Insieme a Veronica Gentili voglio convocare colei che ci porta il sole della Padania che ride. L'Aurora. Colei che ci porta l'Aurora. Aurora Russana. Buongiorno Milan, un caro saluto alla Veronica Gentile e un caro saluto a tutti, ceto medio e non. Ceto medio e nonna. Perché ceto medio e nonna? No, sai che ieri sera al Matteo Renzi Show ha detto che taglierà le tasse al ceto medio. Ah, sì, è vero. Sì, e allora, beati quelli del ceto medio. Vabbè, beati quelli del ceto medio. Oh, se esistono. Tu sei un ceto? Io sono medio. Sei medio. Sono medio. Perché delle precisazioni così inutili? Sono medio e basta. Ha detto anche che cancellerà Equitalia, che ha abbassato le tasse, ma anche gli amici non gli credono. Vedi, va a cena e gli amici gli dicono, ma noi non ce ne rendiamo conto. È un po' Baudrillard, sai. Cos'è? Baudrillard. Sei troppo acculturata per me. Ti ho citato così Baudrillard di prima mattina, tu vai così non capisci più niente. Proprio medio. Dai, mettiamoli va a pensiero. Mettiamoli va a pensiero. Comunque ha detto anche che proibirà che io ti chiami sciocchina, hai sentito? No, non è vero, questo non l'ha detto. È la quinta volta, annuncio che è la quinta volta. È la quinta volta. No, non è vero, ha detto tutto, ma questo no. È la quinta volta che Veronica Gentili, tra poco lo twitterò, mi chiama sciocchina in onda. Attenzione. Ma c'è il sole a Roma? Non ti guarda, sei ancora al svegliata. Momento, costringendoti tu ad un risveglio in cui c'è ancora la luna, non te lo posso dire, però. Va bene, cioè, non lo sa ancora. Oggi il tempo allora, invece, è brutto anche qua. Ecco, perché invece a Cantù siamo a 12 gradi e viene giù un'acqua, ragazzi. Ho messo fuori la salvia rosmarino. Perché nel vaso perché qua viene un'acqua, ragazzi. Cara Aurora, arriva un saluto speciale da Laura da Castelfranco Emilia. Aurora è speciale, mi dice. Vabbè, ma è speciale, poi è incinta, aspetta una bimba, quindi è specialissima. Il fatto che sono gravida, insomma, determina il tuo giudizio su di me. Cioè, fai valutazioni in base. Stavo dicendo un giudizio positivo. Stavo subito si arrabbia. Vabbè. Aspetta, devo salutare anche io il mio amico che fa il frontaliere all'incontrario. Sì, ma dai, su. Lui abita a Lugano e lavora giù a Milano. E allora giù la mattina, povero, si fa tipo 2 ore di macchina. Sì. E mi ha detto così di salutare. E come si chiama questo? È Fiorentini, Franco Fiore, mio amico. È un altro Fiorentino. E vedi che Fiorentino torna qui. No, però della Lega. Allora. Ma è come, non può ascoltare qui. Dovrà ascoltare Radio Padania, verrà subito cacciato dalla Lega per queste cose. Ma si fa il tragitto in macchina la mattina, sento una mezz'oretta. Tu dovevi dire ascolta qui solo quando ci sono io, vedi che ti do tutti gli assist per salvare gli amici. Ma poi va su Radio Padania. Ecco appunto. Tutti va bene, allora come tutto il mondo, anche Veronica Gentili, hai mai ascoltato Radio Padania? Non vorrei doverlo dire, ma purtroppo no. Non arriva a Roma, forse. O però forse diciamo che senso avrebbe avuto farlo dopo l'assenza della Lussana, no? Esatto. Con tutto l'affetto per l'amico Morelli, ma che senso avrebbe avuto? Ma esatto, abbiamo rapito la Lussana, ma che ci frega. Dai, apriamo il Parlamento, perché devo subito far sentire quel simpaticone di Salvini di Salvini che è andato, come dire, come dire, è andato al campo rom. Il Parlamento ce l'abbiamo. Ah, ma tu Renzi già l'hai liquidato così? No. Poi dopo andiamo. Mamma mia, perché avevi in canna qualcosa contro Renzi? Ma non lo so. Cioè, vabbè, facciamo... dai, dimmi qualcosa, cosa vuoi dire di Renzi? Hai seguito Matteo Risponde? No, guarda, ieri sera me lo sono risparmiato. Tu sai che mi ero dedicata con cura a lui e De Luca, l'avevo fatto tutto il pomeriggio, dopodiché era una donna finita. Quindi ieri ho detto io questo non me lo merito. Sì. Però ho fatto un po' di recuperini vari. Dicevo, le epurazioni dei vari conduttori televisivi, Giannini, Porro, in realtà sono funzionali al fatto che la conduzione unica a reti unificate se la prende lui, la formula Matteo Risponde serve a quello. Cioè, scavallare il conduttore, capito? Eccolo là. Così non c'è più mediazione, può fare Gianni Morandi, fatti mandare dalla mamma, tutto può fare. Esatto. No, tra l'altro, ragazzi, devo dire questa cosa, giustamente, perché Lorenzo Nespoli mi richiama all'ordine. Noi qua sorridiamo al Parlamento, apriamo la giornata con... C'è però... una brutta notizia. C'è una brutta notizia, purtroppo, che da questa notte c'è nelle agenzie, perché è scomparso di fatto un aereo della Egypt Air, un volo da Parigi al Cairo, dopo che era entrato per 10 miglia nello spazio aereo egiziano, e insomma non si sa niente di questo aereo. Ci sono 69 persone a bordo. È chiaro che però quando si dice scomparso un aereo, ragazzi, cioè che dobbiamo pensare, scomparso dai radar, è scomparso, insomma, non si hanno più notizie di questo aereo con 69 persone a bordo. Ovviamente vi terremo aggiornati. Parigi il Cairo, questo è il volo Parigi il Cairo. Allora, Aurora, tu vuoi dire qualcosa su Renzi? Anche tu l'hai detto? Sì, io non l'ho visto ieri sera a Matteo Renzi Show. No, l'hai visto, tu l'hai visto. Sì, ragazzi. Ragazzi, essere incinta a volte porta delle noie mortali. Ho dei doveri, cioè, la maternità ti impone dei doveri, scusa, la mia bimba deve sapere da Che mondo... La bimba deve sapere. È così, è il mondo dei social, la connessione permanente è... Quello che dice De Cercove, il grande De Cercove, il sociologo, siamo al mito di Zeo Panopticon, cioè lui in ogni momento sa quello che accade nel mondo grazie a questa connessione, questa intelligenza sociale gli consente di in qualche modo anche una connessione perpetua con la nostra dimensione individuale. Ragazzi, ma legge tanti libri in gravidanza. Ma li leggeva anche prima, no? Ma soprattutto in gravidanza ha affinato questa cosa. Ho capito, però allora ti cito Baudrillard col simulacro, le simulazioni del postmoderno, non sai niente. Sai niente, cosa devo fare? Poi dici perché ti chiamo sciocchina. Ecco, è lì. E sei. Stamattina c'ho anche il contributo, capito? Cioè lei mi prepara, io ti chiamo sciocchina. E sei, va bene. Allora, sentiamolo qua invece, Salvini. Cosa è andato a fare Salvini in un campo rom? Non sono andato in un campo rom. E fin qui l'ha già fatto. È andato in un campo rom armato di telefonino a filmare tutti. E sentite, fa reportage. Perché ovviamente lo insultavano davanti, no? E ben ritrovati in diretta, Roma, in attesa di Giorgia Meloni. C'ho la felpa, candidata sindaco, sostenuta dalla Lega felpa Roma. E si inquadra la felpa, ovviamente. Nei pressi di un campo rom. E adesso vi documento come la scolarizzazione dei bimbi rom da queste parti non sia esattamente una priorità. Veronica, puoi commentare, puoi dire quello che vuoi. No, vabbè, ma che cosa posso dire? La diretta del campo rom. Ma che cosa posso dire? Di la verità, adesso di una cosa forte, anche tu li avresti menato. Ma sai, ora mi fai dire cose, no. Io figurati, lo sai che sono una ragazza pacata, non violenta, molto molto ponderata nei costumi e nei modi, quindi mai. Però insomma, diciamo che un insultino c'era un po' di provocazioncina, c'era ad andare lì a fare una cosa del genere, no? È un po' di provocazione, sì, però vero, Aurora Lussana ci dirà che no, perché no. Serve la provocazione, altrimenti se non ci sono un po' di casi, adesso sta campagna elettorale qui la vedo un po' loffia. Ma perché vai in un campo rom? Roma, Aurora, perché va lì? Un po' per provocare, dai. È perché non devono esistere delle enclavi nel nostro territorio di illegalità, come sono di fatto i campi Roma. Così io ho visto un bello striscione e Salvini ti odiamo. Non lo so, probabilmente per loro non vale la legge Mancino con istigazione al odio razziale nei confronti del milanese Salvini. E Matteo Salvini è così da verosimilmente 20 anni, è 20 anni che ci va nei campi Rom, ci andava da consigliere comunale, ci va da capo di un partito. Diciamo che in questo momento Accolgono? È particolarmente utile, no? Ha stretta amicizie, relazioni, insomma. Ma a me le persone che c'hanno coraggio mi piacciono, insomma. Lì rischi davvero di portarti a casa anche le botte, nel senso, e lui ci adesso fortunatamente è scortato, quindi non è che Però vedi anche con i centri sociali tutte le volte, insomma, si arriva allo scontro, quindi insomma nel nostro paese non lo so, siamo al Fedex in turno che fa il dito medio a Salvini, cioè quasi la legittimazione all'odio nei confronti di Salvini. Ma no, però io non credo che Salvini non lo sappia, che un po' non se la vada a cercare, perché comunque un po' di caso mediatico serve sempre, siccome i talk show ormai li abbiamo fatti tutti, le felpe le abbiamo fatte tutte. Beh, allora diciamolo che nei campi Rom non si può andare. Diciamo, allora anche io se vado in un campo Roma, a seconda dello spirito con cui ci si va, secondo me ci si può andare, secondo me sì, ho capito, ma Aurora non puoi far finta che Salvini va in un campo Rom dopo aver detto usiamo le ruspe, eccetera. Cioè, no, come dovrebbero accoglierlo? Come dovrebbero accoglierlo? Con un brindisi di benvenuto? Cioè, tu non saresti accolta bene, cioè tu non accoglieresti bene a casa uno che ti dice fino a 3 giorni prima ti butterei giù la villa, la casa. Ti butto giù la casa illegale e ti sgombero il campo. A parte che voglio dire, dovrebbero essere tutti rasi al suolo i campi illegali. Cioè, sono dei luoghi dove i bambini sono costretti a convivere con i topi. E no, ma il fatto che non dovrebbero nemmeno esserci campi Rom è un altro discorso. Siamo tutti d'accordo, cioè che l'ambizione sia il superamento dei campi Rom. Ma guarda che molti Rom lo dicono per primi, cioè che non è bellissimo vivere così. Ma sono dei posti dove comunque è l'inferno, a prescindere da tutto il resto, pensi che la qualità della loro vita lì sia proprio è sotto la soglia della decenza. Per cui l'Europa ci intima, tra le poche cose sagge, di chiuderli i campi Rom. Comunque, insomma, Salvini dai Rom. No, più che altro la campagna elettorale ormai è un po' loffia, diciamo che i protagonisti sono diventati altri. La Meloni è un po' andata in sordina perché c'è stata la virata su Marchini, quindi ci sono tutti gli show di Berlusconi su Marchini. E la Ferrari di Marchini. Cioè, hai capito, che meraviglia. La Ferrari. Lui si è confuso. Perché Papa Francesco ha detto ai vescovi di stare lontani dai beni e lui non ha capito che lui non era un vescovo, è uscito subito dalla Ferrari. Eccoli. Però devo andare al traffico a proposito di Ferrari, dai, ritorniamo tra un attimo. Aurora Lussana e Veronica Gentili. Omina, e sono Fiorentino, questi qui di Radio 24 sono fissati sul traffico, domandate una volta sì e una volta sì. Uè Mila, speriamo che la Barbara D'Urso quando fai 10 respiri la mattina non abbia la fiatella, eh? O non abbia mangiato l'aglio la sera prima, eh? Bella Milan, number one. Qui siamo tutti fuori di testa. Quella Veronica Gentili, che è una comunista con la puzza sotto il naso, mandala nella Corea del Nord, vedrai che ci va meno su Facebook, selfie e a farsi vedere di qua e di là. Lussana fa la brava, tassenoda cantuti, se bergamasca, sei ospite temporanea cantù. Fa la brava, prima che dite diventa brianzola da cantù, te da incide mangiante roba buona de casura. Va bene, adesso Aurora Lussana tradurrà per tutti, insomma, che l'hanno accusata di essere una ospite temporanea a Cantù, essendo lei di Bergamo. Bergamo, dove tra l'altro Renzi sabato piomberà. Sì, Sì, ci sarebbe infatti anche un presidio. Un presidio? Ma il sei al presidio? Col pancione? Sarai col pancione al presidio? No, tu stai buona. No. Ma perché mica capite? Cioè, scusa. Cioè, vai al presidio? Anti-Renzi? Cos'è il presidio? No. Sì, quando arriva c'è un comitato d'accoglienza. Cioè, così, insomma, ci poteva essere destino peggiore per Aurora Lussana? Renzi che inizia la campagna per il via sì al referendum. Ma Bergamo, lo so, sai, lui, vabbè, a parte che a Bergamo c'è sul Gori, che voglio dire. Il Gori, il sindaco. Il marito della Parodi. Esatto. Ecco, ci siamo organizzati, sabato pomeriggio si allacca. E cosa andate lì a fare un casserolaso con le pentole? cosa fate? Vediamo il ragazzo. C'è anche Salvini? No, non c'è al momento. No, ho impegnato cose più. Adesso il Renzi è contento che gli hanno dato la flessibilità, insomma, tutto contento. Vabbè, dati sull'occupazione, vabbè, ha detto che sono falsi. Quella è la cosa peggiore di ieri sera. Quello non ci sono. Cos'è che ha detto? Ma secondo me la notizia di ieri è che ha detto che abolisce Equitalia. Ma che vuol dire? Quella non è la notizia, quella è il rilancio a puntare sempre più in alto. Questa è la cosa gravissima. Cioè, ti metti Tito Boeri dentro casa, ce lo metti tu, è l'unico che sta cercando in tutti i modi di sensibilizzare la gente rispetto a dei dati veramente allarmanti. Ieri è esce, come abbiamo detto in tutte le salse, che gli incentivi dati dal Jobs Act sarebbero durati così il tempo di un soffio, non a caso i dati sull'occupazione dimostrano questo, i dati che stanno uscendo sui voucher che dovevano essere il modo di controllare il caporalato e che invece stanno diventando l'istituzionalizzazione del lavoro nero fondamentalmente. Tutto questo viene detto e lui ieri dice chi è che parla di questi dati, che risate, suffiniamola. Ecco, mi piace quindi l'economista Veronica Gentile, mi piace. Stavo guardando che sabato c'è Salvini, ma qua a Como, a Giateco Masco. Un attimo. Che si va al voto. Guardando l'agenda, scusa, aspetta. C'hai l'agenda di Salvini, non ho capito. La mia. Sotto mano, no, ho capito. Gestisci l'agenda di Salvini. Ma sentiamo qua, sono le 6:53 minuti. Attenzione, i selfie sono arrivati, almeno è arrivato il selfie di Veronica Gentili. È arrivato Aurora il selfie. Ci dà sempre la Mamma mia, ragazzi, ma Aurora, ma cosa ti costa? Un pezzetto di pancia. Ma fai una foto, ma se no fai una foto di un melograno a casa. No, non c'ho il melograno, non c'ho le erbe aromatiche. Un profilo della pancia senza faccia. Dai presenza di te, insomma, con un selfie. Sarebbe gradito, però non insistiamo oltre, Non insistiamo oltre. Timida. Però attenzione, perché continua il contest, ormai manca... Stai buono, hai visto cosa gli è successo al Porro, cosa gli è successo al Belpietro a trattare male Renzi e la boscosa riformista lì. Boscosa riformista. La sciocchina non li tratta male. Stai attento, porta rispetto al governo. Eccolo lì, il contest, come chiameremo la figlia di Aurora Lussana. L'unico nome che potrebbe andar bene per tua figlia è sicuramente Verdiana. Benita o se no Adolfina. Se il carattere della figlia dell'Aurora le assomiglia anche solo un pochettino, il nome che dovrebbe scegliere è Despina. Ho trovato il nome perfetto per la bambina di Aurora Lussana. Santa pazienza con una mamma così. Non è male, santa pazienza Molteni Lussana. Santa pazienza. Continuate a mandarci l'audio, poi voteremo e sceglieremo. Al 349-238-6666 è un numero anche a WhatsApp, in audio ci dite come chiameremo la figlia di Aurora Lussana e noi lo scopriremo. Grazie Aurorina, grazie Veronica, mi avete portato un po' di sole nella Milano dove secchiate d'acqua ci accolgono da questa mattina. Evviva, vi abbraccio, grazie, ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Oh, saluto Leonardo da Roma, che dal traffico di via Salaria ci dà un bel buongiorno, ma magari a Roma non piove come a Milano e come qui su nel nord. Cari italiani, siamo qui alle 7:20 minuti, siamo pronti a tuffarci nella lettura dei giornali? Avanti! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E allora, giovedì 19 maggio, mi va di traverso anche l'acqua, evviva! Siamo qui a leggere i titoli, intanto il Sole 24 Ore, l'apertura sull'Unione Europea, sia la flessibilità ma bisogna fare di più su debito, tagli e pubblica amministrazione. Anche per il Corriere della Sera, le condizioni dell'Unione Europea, verifica a ottobre sui conti italiani. Per Repubblica, l'Unione Europea, fate più tagli. Renzi pronti a dare l'addio a Equitalia, questo l'ha detto ieri nel suo Matteo risponde. Ecco l'ipotesi patrimoniale, questa è l'apertura del giornale, è la cambiale di Renzi, mentre La Stampa intervista il ministro Padoan che parla di tante cose e dice anche, questo è il titolo di prima pagina, troppe banche in Italia. Il Messaggero, taglio IRPEF per il ceto medio, è l'annuncio di Renzi ieri, appunto nella diretta su Facebook, Matteo risponde. Come vedete, queste le aperture soprattutto sull'Unione Europea, ce ne sono altre, tra poco le vedremo, voglio però buttarmi subito nella lettura delle notizie, a cominciare da quello che è successo ieri in provincia di Messina, dove il presidente del Parco dei Nebrodi, sapete, Giuseppe Antocci, è scampato a un vero e proprio agguato di stampo mafioso a fucilate, salvato dall'auto blindata e soprattutto salvato dalla scorta che lo ha, gli ha letteralmente strappato da questo agguato. Raccontato da Felice Cavallaro sul Corriere della Sera, così a pagina 8, hanno preso a colpi di lupara un pezzo di vera antimafia, quella di cui non si parla mai, quella che assesta danni reali a Cosa Nostra. Come il presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antocci, che si è ripreso migliaia di ettari tra Messina ed Enna, strappandoli a famiglie che li ottenevano in concessione con la complicità di funzionari corrotti e impauriti, pagandoli 30 euro mentre valgono 3.000 euro. Con un seguito di denunce alla magistratura. Questo l'agreste scenario di un agguato che sembra respingere la Sicilia indietro di un secolo. I sassi per ostruire la strada, una vettura costretta a bloccarsi, le canne dei fucili che compaiono dalle siepi, i proiettili che forano gli sportelli dell'auto blindata, per miracolo senza ferire Antocci e i suoi due agenti di scorta, rinchiusi per tre infiniti minuti nell'abitacolo senza poter rispondere al fuoco, finché accade il miracolo, perché dalla stessa curva sbuca una seconda auto della polizia, con a bordo un autista e il commissario da 2 anni a protezione di Antocci, Daniele Manganaro. Adesso è lui l'eroe di questa notte di fuoco. Dopo tante minacce con lettere minatorie e proiettili, il commissario in servizio a Sant'Agata di Militello, anche lui fino a quell'ora a Cesarò, intuita la scena, ha cominciato a sparare contro i sicari, 4 o 6, saltando giù con l'autista, pure lui armato, un imprevisto che ha disorientato gli attentatori dileguatisi nel buio. Questa è la dinamica, il presidente Antocci, intervistato un po' da tutti i giornali, anche dal Corriere della Sera, dice... a pagina 9, per la penna di Alessio Ribaudo, avevo partecipato a Cesarò a una manifestazione sui Monti Nebrodi, stavo rientrando a casa quando c'è stato questo agguato, ho sentito i colpi, stavo dormendo perché era la luna di notte, poi ho subito capito, ho pensato alle mie figlie, a mia moglie, ho avuto paura di non rivederle più, ma grazie a questi tre angeli che mi proteggono, poche ore dopo le ho abbracciate. Questa esperienza mi fa pensare ancora di più che sto combattendo dalla parte giusta, non ho mai pensato di dimettermi dall'incarico, combatto dalla parte dei tanti siciliani onesti che lottano ogni giorno per il riscatto di questa terra, costi quel che costi. Chi pensa che possa aver sparato, chiede il Corriere. Sono stato interrogato per 6 ore dalla direzione investigativa antimafia, sono certo che gli inquirenti daranno risposte immediate, non conosco le facce di chi ha premuto il grilletto, ma credo di intravedere i mandanti, i mafiosi che hanno nei pascoli dei Nebrodi interessi milionari. Soldi che la mia presidenza ha fatto andare in fumo grazie alla creazione di un protocollo di legalità. Il primo in Italia studiato appositamente per recidere le infiltrazioni mafiose dai nostri terreni. Così insomma Giuseppe Antoci parla al Corriere della Sera. Oh, devo parlare invece un po' di informazione, perché l'ho già detto ieri, giornali che cambiano, linee editoriali che cambiano, direttori che cambiano. Beh, intanto chiude Virus, il programma di Nicola Porro, quello anche travolto dalle polemiche per l'ultima puntata, l'invito di Red Ronnie a parlare di vaccini. Nicola Porro lo ha annunciato su Facebook, ha avuto la comunicazione dal direttore di Rai 2, Ilaria Dalla Tana, che chiuderà a giugno. La Rai cancella Virus per il giornale, dove Nicola Porro è stato vice direttore. Via tutte le voci sgradite, insomma la Rai cancella Virus. E poi c'è una grande polemica per il cambio di direzione a Libero. Secondo il Fatto Quotidiano, ecco qua che mi ero tenuto da parte il titolo di prima pagina, il Fatto Quotidiano titola così: il governo gli spalma i debiti e Angelucci gli regala Libero. Va magari un po' spiegato questo titolo. Angelucci è l'editore di Libero, nonché onorevole di Forza Italia. E racconta Carlo Tecce che dietro a questo cambiamento a Libero, cioè Feltri messo direttore al posto di Maurizio Belpietro, c'è il fatto che c'è tutta una storia legata a milioni e contributi pubblici, perché Angelucci ha scelto Renzi, l'editore caccia Belpietro, direttore ostile alle riforme, dopo che Lotti, cioè il sottosegretario, ha sbloccato i fondi e rateizzato un debito dell'editore di Libero. Questa è l'accusa del Fatto Quotidiano, e l'accusa è quella, come dire, di creare una sorta di stampa unica anche col progetto Stampubblica, cioè l'unione tra stampa e Repubblica, e appunto Libero ora con Vittorio Feltri, che ha detto: non sono per il no alle riforme, anzi sono per votare sì al referendum a ottobre. E Vittorio Feltri risponde in un'intervista al Foglio. Il Foglio intervista il neo direttore di Libero, lo fa Salvatore Merlo. Io meglio renziano che figlio di puttana, questo è il titolo. Vittorio Feltri: ma davvero sei diventato renziano tu, Vittorio Feltri? Chiede Salvatore Merlo. L'ho letto stamattina sul Fatto, scrivono anche che ho pranzato con Renzi, uno che non ho mai visto in vita mia. Prima di diventare un fedelissimo di qualcuno bisognerebbe averci un minimo di rapporto. E poi, insomma, meglio renziano che figlio di, appunto. Quindi non sei stato chiamato a dirigere Libero al posto di Belpietro per spostare la linea del giornale e fare campagna per il referendum? Romanzi, cazzate, risponde Feltri. Ero in contatto con gli Angelucci, gli editori, da luglio, ci incontrammo qua a Milano, e al figlio di Angelucci dissi chiaro e tondo: non vengo a fare il maggiordomo di Belpietro. Già è difficile scrivere sul giornale che Berlusconi fa sciocchezze, per così dire, figurarsi se mi devo far condizionare da un altro direttore. E guarda che Belpietro l'ho inventato io, l'ho scoperto a Bergamo, me lo son trascinato all'Europeo, poi all'Indipendente, al giornale. Ma l'altro giorno ha nascosto per quanto possibile il mio primo pezzo su Libero, quello a favore del referendum, e la cosa mi ha fatto girare le scatole. Mettiamola così: poiché mi è stato chiesto di fare il direttore, ora posso impegnarmi a risollevare il giornale che avevo lasciato a 120.000 copie. E ringrazio oggi nel mio primo editoriale Belpietro per aver perso copie in questi anni. Sei ironico? No, no, poteva perderne di più. E poi parla anche di Berlusconi. Feltri dice: Berlusconi, stavo con lui quando era lucido, ora è sincero solo quando mente. Ma allora vedi che sei diventato renziano? No, non sono berlusconiano e non mi sento un volta gabbana. Così Vittorio Feltri, intervistato dal Foglio, effettivamente oggi il suo primo editoriale su Libero. Ringrazia Maurizio Belpietro, fa notare che però quando c'era lui si vendevano più copie, 120.000 di Libero, ora non più, ma dice: rilanceremo il giornale. Poi fa anche un riferimento: faremo un giornale e diremo pane a pane, vino al vino, e sul vino, scrive Feltri, saremo moderati per non alimentare i pettegolezzi secondo i quali ne abuseremmo. Ma Feltri parla insomma del suo rapporto col vino. E quando non si sa come diffamare una donna, si dice che sia di facili costumi. Quando si vuole sporcare la reputazione di un uomo si dice che non è insentore, una tecnica vecchia quanto il mondo. Un giorno Churchill incontrò una signora e le disse: «Siete brutta!» e costei, «E voi ubriaco!» Al che lo statista replicò: «Forse è vero, ma io domani mattina sarò sobrio, voi ancora brutta!» Insomma, scrive Feltri, dato che i quotidiani vedono la luce sempre all'alba, Libero sarà immancabilmente lucido e avrete facoltà di verificarlo. Insomma, anche Feltri che si esercita in editoriale sul suo rapporto con il vino. Va bene, siamo all'articolo che invece mi fa pensare della giornata. Ah, quando si compilano le liste per i candidati alle amministrative, succede sempre che entra qualcuno. Che insomma, l'ultimo caso è da Napoli. Eleonora De Maio, candidata in Democrazia Autonoma, lista arancione che sostiene De Magistris, va su Facebook, mamma mia, sempre su Facebook, a scrivere che cosa? Israeliani, porci, accecati dall'odio, negazionisti e traditori della vostra stessa tragedia, che schifo. Ecco, succede a questa studentessa universitaria, compagna del leader degli antagonisti napoletani Egidio Giordano, oggi candidata al Consiglio Comunale di Napoli. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da SailPost, la nuova posta italiana. Scopri di più su sailpost.it. Alessandro Milan, Lesi Giornai, El Te Commenta e Notizie. Ogni tanto fa anche una cantadina. Come ti fanno ascoltarlo? Dialetto veneziano. Straordinario, caro ascoltatore, un grosso abbraccio. La cantatina, però, obiettivamente, ve la risparmio, ecco, te la risparmio. Però, vabbè, se vuoi ti faccio una serenata, ma privatamente. Allora, non sono in grado, ma grazie. Mandate le vostre sigle al 349-238-6666. È un numero anche WhatsApp, quindi mandatele in audio. Dai, tecnologicamente avanzate. Fate come Renzi, che fa il Matteo risponde. Tra poco ci arriveremo, al Matteo risponde. In realtà partiamo dall'Unione Europea. Allora, l'Unione Europea, come racconta Beda Romano a pagina 3 del Sole 24 Ore, ha, con la Commissione Europea, dato il via libera alla legge di stabilità per il 2016. E questo si sapeva, ieri la conferma, in cambio però di promesse per il 2017. E infatti Bruxelles ha annunciato un nuovo rapporto sull'indebitamento dell'Italia entro novembre. Sarà l'occasione per fare il punto sulle finanze italiane. Tra l'altro, scrive Romano, il caso italiano è più controverso di quello belga e finlandese trattato insieme all'Italia ieri, perché il governo ha chiesto generose flessibilità di bilancio nel 2016. In questo contesto la Commissione con Moscovici ha spiegato: abbiamo ricevuto impegni chiari che Roma centrerà l'obiettivo di deficit dell'1,8% del PIL nel 2017 e che eviterà una deviazione significativa rispetto al cammino verso il pareggio di bilancio. Renzi ha detto nella sua diretta Matteo risponde: ricordate le polemiche qualche mese fa quando abbiamo chiesto più flessibilità all'Europa? Ora ricerchiamo quei titoloni di editoriali che dicevano Renzi è isolato. Questa è la risposta. In realtà Renzi ieri ha promesso entro il 2018 Equitalia sarà abolita. Questo non è così. Nella diretta Matteo risponde: non ci arriva al 2018, ha detto Equitalia. Ha detto anche: meno tasse per il ceto medio, l'IRPEF giù al ceto medio. Annuncia dunque le misure della prossima legge di stabilità. In realtà, se saltiamo sulla stampa, la stampa intervista il ministro dell'economia Padoan, beh, qui c'è un po' più di prudenza. Proprio la domanda diretta: col vincolo dell'1,8%, chiede Alessandro Barbera al ministro Padoan, col vincolo dell'1,8% di deficit, ci sarà spazio per ridurre le tasse? E in particolare l'IRPEF, come dice Renzi? È prematuro parlare di singole misure. Eccola qui la prudenza senza annunci di Padoan. Le misure vanno valutate nell'ambito della legge di stabilità. L'impegno a neutralizzare le clausole di salvaguardia è noto ed è stato preso con il Paese. Cioè, capite, la diplomazia. L'impegno a non far aumentare l'IVA c'è. L'abbiamo preso con il Paese, ma è prematuro fare annunci. Così Padoan. Il governo lavora da più di 2 anni, parla poi di banche, Padoan. Il governo lavora da più di 2 anni a riforme strutturali del settore, delle banche popolari, cooperative, delle fondazioni bancarie. Abbiamo assistito alla nascita del Fondo Atlante, abbiamo preso misure per accelerare le procedure concorsuali e il recupero crediti. Il nostro lavoro è ispirato a una filosofia: favorire le aggregazioni, perché in Italia ci sono ancora troppe banche. È questo il titolo dell'intervista. In Italia ancora troppe banche, ora servono altre aggregazioni. E poi, rispondendo all'Europa, il governo andrà avanti con le privatizzazioni e tagli per ridurre il debito. Sul debito pubblico, dice Padoan, continueremo a fare ciò che è necessario, benché l'assenza di inflazione non aiuti. Stiamo privatizzando l'ENAV. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri abbiamo approvato il decreto propedeutico alla messa sul mercato di Ferrovie. Resta l'ipotesi di vendere una nuova tranche di Poste e parte del patrimonio immobiliare. Questo dice Padoan. Il giorno dell'annuncio invece di Renzi, appunto, IRPEF giù al ceto medio. Tra l'altro, in un retroscena interessante che riguarda i conti pubblici, mette insieme le tasse, mette insieme il referendum, Federico Fubini racconta, pagina 3 del Corriere della Sera, che c'è il dilemma della data del referendum, quello su cui gli italiani dovranno esprimersi sulla conferma o no della riforma costituzionale. Allora, quando sarà ottobre? Si pensava a domenica 16 ottobre, per esempio, ma, scrive Fubini, sabato 15 ottobre, cioè il giorno prima, sarà il giorno entro il quale il governo deve mandare a Bruxelles la proposta approvata di legge di bilancio che imprime per la prima volta in 3 anni una lieve stretta all'economia. E allora il dramma è questo, il dilemma è questo, visto che si cercano almeno 10 miliardi da giorni, si racconta. Come fa Renzi a magari cercare 10 miliardi, magari a dover varare delle tasse oppure a varare tagli proprio il giorno prima di un referendum? Insomma, o Renzi anticipa il referendum di almeno 1 o 2 settimane oppure decide di sfidare ancora una volta la Commissione europea a rischiare la sanzione sui conti, perché non può presentarsi a un referendum nel quale poi chiede un voto per il sì. Magari tagliando da una parte, quindi scontentando qualcuno, o addirittura mettendo una tassa in più e scontentando i cittadini. E quindi c'è il dilemma su quando e dove piazzare la data del referendum. Comunque, meno tasse per il ceto medio, questo è l'annuncio, anche se Padoan dalla Stampa rallenta, diciamo un po' così. Per quel che riguarda invece la politica, la politica, che dobbiamo dire? Vi segnalo il patto del Panzerotto. Emiliano si è incontrato con Renzi, appianate un po' tutte le loro divergenze politiche. Intervistato dal Corriere della Sera, Emiliano racconta cosa c'è dietro il patto del Panzerotto, le trivelle, il referendum sulle trivelle, una parentesi. Ora c'è simpatia, sarà anche, come scrive e chiede il Corriere della Sera, il fatto che Renzi abbia dato 2 miliardi sbloccati per la Puglia di questa rinnovata simpatia. Il governo mi ha chiesto la lista delle opere da finanziare coi fondi di sviluppo e coesione, risponde Emiliano. E io, dopo aver dolorosamente tolto 2 miliardi e mezzo di opere, gliel'ho mandata. Vabbè, insomma, Emiliano che si riavvicina a Renzi perché c'è stato il patto del Panzerotto. Salvini che va in un campo rom e viene accolto non benissimo, e Beppe Grillo che dice in uno dei suoi spettacoli, in questo caso a Napoli nel suo tour: o andiamo al governo nel giro di un anno oppure tutti a casa. Questo è il titolo di Repubblica. Tra l'altro la notizia più interessante forse è questa: ha detto serve un algoritmo per decidere chi del movimento può far parte oppure no. Se un parlamentare che hai votato non segue il programma, l'algoritmo automaticamente lo espelle. L'algoritmo. Eh? non è male. Per esempio, se Mauro Meazza adesso non dice le tre parole chiave, secondo me fondamentali, nel suo intervento, verrà automaticamente da un algoritmo depennato. Buongiorno Mauro. Ora tu le devi trovare le tre parole. Chi lo realizza, fammi capire. E l'algoritmo, un matematico, credo. Ah, ti rivolgi a un esperto, insomma, sì, no? Sì. Non lo fai lì in casa tu con Peter, Lorenzo, no, vabbè. Faremo un allora, disastro. Allora, non so, non conoscendo i parametri dell'algoritmo, tiro un po' di cose a casaccio e speriamo che me la cavo, come diceva il famoso sì. film. Vuoi cominciare dal macro o dal micro? Ma fai intanto tu, questa guarda, scelta. Macro. Allora, macro, ti segnalo che c'è la deflazione, cioè restiamo in deflazione. L'eurozona tutta, cioè i paesi che aderiscono all'euro, purtroppo anche ad aprile, hanno segnato una variazione del meno 0,2 dei prezzi. Non è una buona cosa. Vuoi capirne di più? Leggi oggi il Sole 24 Ore. Riccardo Sorrentino, a pagina 6, ti spiega che purtroppo, nonostante tutti gli sforzi della Banca Centrale Europea, i consumi in qualche modo non ripartono. Oh, poi sempre di macro ti segnalo buona prestazione invece per l'economia giapponese, il PIL, il prodotto interno lordo di Tokyo che cresce. Ancora di macro, rallentamento dei nuovi contratti stabili, adesso non iscrivermi alla categoria dei gufi rosiconi, per favore. No, sto citando dal Sole 24 Ore, il saldo complessivo di marzo per i contratti è positivo, ma è in forte rallentamento sui dati precedenti perché, come sai, si è ridotto di molto l'incentivo alle assunzioni. Andiamo al micro? Sei pronto? Va bene, sono pronto. Oh, allora, c'è la circolare, ma caro mio, è una circolare con la C maiuscola. È la circolare delle entrate dedicata alle novità della legge di stabilità. Tra l'altro con delle importanti aperture per quanto riguarda gli sconti che riguardano gli immobili. Quindi leggi avidamente questa volta, oltre che religiosamente, norme e tributi, dove ti spieghiamo i passaggi principali della circolare con la C maiuscola. E poi, attenzione ai due eurini, non so più come dirtelo. Guarda che è legge l'accordo Italia-Svizzera, l'intesa Italia-Svizzera. Quindi tira via sti due eurini o aspetti la riapertura della Vorunta, non so come sei stato consigliato. La discrasure, va bene. Leggi comunque su norme e tributi, questa volta religiosamente. Sappi che una volta tanto siamo arrivati prima noi a ratificare, a far diventare legge questa intesa, che non gli svizzeri, che stanno ancora aspettando perché potrebbe anche essere sottoposta a referendum. Ma tutti i particolari in norme e tributi, mentre su finanza leggerai del futuro della squadra che porta il tuo stesso cognome. Ecco. 7-8 soci cinesi attesi a Milano il 28 maggio. Vedremo. Per intanto, traffico! Alessandro Milan, il respiro a bocca aperta dell'informazione. Ebbene sì, ieri ho raccontato che Barbara D'Urso così ci rende dotti dal suo nuovo libro. Appena si sveglia al mattino fa 10 respironi così a bocca aperta. Speriamo senza fiatella, qualcuno mi ha scritto. Comunque insomma... 10 respironi così, primo sintomo per stare bene durante la giornata. Allora, cari ascoltatori, vi devo raccontare che, come scrivono i giornali, Marco Pannella è stato ricoverato in ospedale, malato da tempo, ha un tumore. Però il titolo del Corriere della Sera, che dedica una pagina a questo, non lascia molte speranze, anzi il titolo è proprio Pannella ricoverato, i medici dicono non c'è speranza, il leader è stato sedato, leader dei radicali, per i dolori, e quando gli hanno chiesto se potevano farlo ha risposto grazie. Decisione presa il 2 maggio, non può incontrare più nessuno proprio perché è sedato. E come scrive Alessandra Rachi sul Corriere della Sera, i medici dicono non c'è più speranza per lui, Marco Pannella. Lasciamo la politica. Mi ha molto sconvolto leggere questi due articoli. Uno su Repubblica, pagina 25. Cari genitori, aprite bene le orecchie. Dal web a WhatsApp crescono i sexy ricatti. siti, si chiama sexting. A rischiare di più sono gli adolescenti, quadruplicate le denunce dal 2013. Maria Novella De Luca racconta su Repubblica: in due anni le denunce sono quadruplicate, il sesso via web non conosce confini né flessioni di mercato, e così la sua parte oscura, nera, inconfessabile, come spogliarsi via Skype, pensando di vivere attimi di piacere con anonimi conosciuti in rete, può costare tantissimo. Si chiamano sexy estorsioni, sextortion. In Italia le denunce alla polizia postale sono passate da 400 nel 2013 a 1700. Può cominciare con un innocuo sexting, cioè scambiarsi messaggi e video svestiti, più o meno erotici. È successo ad Alice, 16 anni, che ha raccontato la storia a Telefono Azzurro. È successo a Carlo, 50 anni, una moglie e due figli, che dopo qualche giorno eccitante con una bruna ragazza spagnola conosciuta via Facebook, ha ricevuto la richiesta di 2000 euro da pagare perché il video non fosse diffuso, e così via. Insomma, attenzione, perché stanno sempre crescendo. Certo, forse mi ha colpito ancora di più leggere l'apertura del Giorno, le due pagine, pagina 2 e 3, a partire da questo maxi archivio pornografico con video, immagini, tutto materiale trovato sulla rete definito Bibbia 3.0, un maxi archivio di oltre 10.000 file, video, immagini rubato dalla rete, magari inviato da ragazzine pericolosamente immature, pubblicato poi a tradimento da fidanzatini vendicativi e poi raccolto in video spesso di carattere pedopornografico e diffuso in rete. Perché è stato scoperto? Per la denuncia di un padre di Modena che ha visto lievitare il conto sulle poste pay della figlia e ha scoperto una cartella del suo computer con foto hard che inviava a questo archivio Bibbia 3.0. Quello che mi ha sconvolto è che il Giorno mette insieme anche un'intervista a una sedicenne che conduce una vita parallela in chat nelle pericolose stanze virtuali e dice: faccio soldi spogliandomi, facendomi riprendere, e mi sento una diva. Sono sognata da migliaia di persone, non provo alcuna vergogna, mi bastano 2 ore e guadagno 200 euro. Sono entrata in contatto con uno di questi siti, mi è venuta voglia di capire come funzionasse, si è spalancata una porta che non conoscevo, le persone hanno iniziato a cercarmi e da quel momento ho deciso di continuare. Dentro ci sono persone di qualsiasi tipo che hanno voglia di confrontarsi, conoscerti. A osservarti c'è l'operaio, il ragazzo, l'avvocato, parlo molto e per un adolescente è un onore ricevere visualizzazioni o like, perché vuol dire che piaci, ti senti popolare, ti senti apprezzata. È intervistata da Valentina Reggiani a pagina 3 del Giorno, questa sedicenne: faccio soldi, mi sento una diva, in pratica spogliandomi davanti alle telecamere in queste chat. Vabbè, no, mi ha molto colpito. Vi segnalo anche in rapida conclusione un reportage di Repubblica dal Burundi. La rivolta contro il terzo mandato del presidente Nkurunziza, che ha risposto con una brutale repressione contro l'etnia dei Tutsi, contro le organizzazioni non governative e contro i mezzi di informazione. Un reportage di Pietro Del Re, pagina 14 e 15, nelle strade di Bujumbura, capitale del Burundi, con gli oppositori braccati che dicono: rischiamo un altro genocidio. Ve lo segnalo come lettura da Repubblica. Siamo alla conclusione? Siamo alla carta costa? Anche in diretta sul mio profilo pubblico Facebook, eccolo qui, una pagina del Giornale. Simonetta Caminiti racconta: la nuova moda della rete sono i maestri dei fai da te, quei tutorial fatti da tutor. Il più cliccato è uno, io ne ho visto anch'io uno, come si apre la noce di cocco da uno di Samoa nel giro di un minuto, mi sono perso in questi tutorial. Ebbene, il video più cliccato del mondo è come fare la valigia, 10 milioni di visualizzazioni. Ma apri una valigia, butta dentro la roba, chiudi e fattela e non rompere. Ma chi se ne frega!